tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Bombat di Firenze e Radio Collegate di Bologna e Genova, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario ateo anticlericale. Ricordiamo il sito del Circolo Giordano Bruno di Milano, www.giordanobrunomi.wordpress.com, e è dotato di motore di ricerca. Calendario anticlericale 2021, info@sicilialibertaria.it. Cominciamo appunto da Sicilia Libertaria di febbraio con la rubrica di Fra Dubbioso, il prete con la cameriera e non solo. Parliamo appunto dei reati sessuali del clero. Siamo in una parrocchia di Milano, il cui prete pedofilo, certo Don Mario Galli, è stato poi assolto con delle formule capziose dal Tribunale Diocesano, la solita copertura dei preti pedofili. Il testo riporta un'ampia disanima di questa tristissima vicenda clericale, e il trasferimento del prete, la soluzione del prete, con tutti i trucchi inventati per assolverlo. Passiamo al piccolo dizionario di terminologia atea anticlericale. Egemonia assoluta. Il cattolicesimo è pervaso da prepotente volontà di dominio monopolistico contro le altre religioni. Aspira ad un assolutismo fideistico, impietà, l'altrui irriverenza nei confronti del Dio personale della Chiesa. Qual è l'enclave più ricca del mondo? È ovviamente il Vaticano, soprattutto a spese dell'Italia. Facciamo quindi una breve disanima del calendario anticlericale 2021. Domenica 7 marzo 2019, il Cardinal di Lione, condannato per pedofilia, copriva i preti abusatori. 8 marzo 2019, sacerdote perde 25.000 euro nella truffa dei diamanti, i soliti preti affaristi. 9 marzo 2018, indagato per omicidio stradale, un prete di Caluso, Torino, uccideva la gente con la macchina. 10 marzo 1942, il nunzio papale a Berna informa il Vaticano sulle deportazioni di massa naziste nei campi di sterminio. Ma Pio XII tace, o meglio si limitò a un breve riferimento nella locuzione natalizia. Passiamo ai misfatti clericali. Dal Messico, condannato a 65 anni di prigione un prete che violò una bambina nella chiesa di Guanajuato, 30 gennaio 2021. Su Rai Storia del 2 marzo, Pio XII e gli ebrei, insomma va abbastanza bene come è stata impostata la trasmissione, ma si omette la cosa principale, perché sebbene lui salvò qualche ebreo dalla deportazione salvandolo in Vaticano, e nello stesso Vaticano furono salvati moltissimi criminali nazisti nel dopoguerra, anche dandogli documenti falsi. E veniamo al caso Vaticano. Il broker del caso Vaticano è la truffa milionaria dell'ente di mutuo soccorso. Associazione a delinquere, truffa, appropriazione indebita. Non parliamo di San Vittore, ma del Vaticano. Corriere della Sera del 3 marzo 2021. Come al solito il Vaticano indirettamente è coinvolto in questo scandalo. Cosche Vaticano. 15 milioni della sanità per i mafia bond. Palazzo di Londra, pure la segreteria di Stato del Vaticano sapeva, le accuse a Mincione, svuotate le casse di questa povera società di mutuo soccorso da questi tizi collusi col Vaticano. E 29 dicembre 2020, arresto di un fanatico monaco russo per induzione al suicidio. Questo fanatico monaco andava in giro con un cappello, con su una croce, e induceva la gente a commettere suicidio a fini mistici, i soliti fanatici religiosi. E 4 marzo 2021, ultima ora, prete porta droga in carcere a Ferrara, indagato appunto per droga. Lui si difende: ma non sapevo che nel mio pacco c'era dentro l'hashish. Sarà. E veniamo a sapere da viator.com che a Madrid si fa un tour dell'Inquisizione spagnola. Ricordiamo che le vittime dell'Inquisizione spagnola, che fu sempre autorizzata e benedetta dal Vaticano, furono circa 10.000 le vittime uccise. Non parliamo dei detenuti, no? Che furono migliaia e migliaia di più. Viva Giordano Bruno, viva il libero pensiero, sia ad una scuola laica, sia allora alternativa. Passiamo al libro di Marco Sassano, Amor di Patria, storia di una famiglia italiana. L'autore famoso per aver scritto il libro Pinelli, un suicidio di Stato e Piazza Fontana Giuseppe Pinelli. E passa in rassegna i suoi antenati, di cui uno combatté per la Repubblica Romana, e l'altro e se andò con i mille, e si parla di Fra Pantaleo, che è esistito veramente. Era un vero frate che gettò il saio alle ortiche per andare con Garibaldi. Poi si sposò e passò all'anticlericalismo. E, riguardo alla vicenda di Pinelli, questo importante giornalista sviluppò tutta una serie di studi sulle manovre clerico-fasciste della strategia della tensione. Su Rai Storia, mercoledì scorso, ore 18, si parla del terremoto di Lisbona, anche qui con atteggiamenti chiaramente anticlericali. Si parla proprio di molte persone morte nelle chiese, eh? Le chiese erano trappole mortali. Palermo, sentenza sul pallone in oratorio. Si può giocare al pallone in oratorio, perché c'erano state delle denunce contro gli oratori spaccatimpani da parte dei vicini di casa. Ma tempi e spazi del gioco dovranno essere disciplinati in modo da rispettare l'altrui udito. E passiamo poi all'ACEA, un ente romano, Fatto Quotidiano del 28 febbraio 2021. Così come la regione Lombardia riempì di soldi l'istituto di Don Verzè e San Raffaele a discapito di Niguarda, allo stesso modo l'ACEA del comune di Roma dà un fracco di soldi agli ospedali cattolici e molti di meno agli ospedali pubblici. Sul Corriere del 28 febbraio l'enigma di Giuseppe Flavio. Chi era questo Giuseppe Flavio? Era un ebreo che passò al paganesimo e ci ricorda la famosa figura del rabbino romano Israel Zolli che passò dall'ebreo al cattolicesimo. Cioè, la storia si ripete sempre. Allora si parla di questo famoso testimonium flaviano, appunto di Flavio Giuseppe, che inserì nei suoi scritti un riferimento a Gesù Cristo. Qui si parla in questo articolo se era falso del tutto o falso in parte. Abbiamo poi un fenomeno di anticlericalismo popolare da Pavia, decapitato il Cristo dei Venti. C'era anche il Cristo dei Venti, veniamo a sapere che c'era anche il Cristo dei Venti. Allora, sempre dal Corriere della Sera del 2 marzo, si parla dei libri di Gesù, su Gesù Cristo, e le recenti novità archeologiche non aiutano per niente. Si mette in guardia contro l'interpretazione fideistica della figura di Gesù, che sarebbe solo un ebreo marginale, e frutto di mitizzazioni, immaginazioni, devozioni, era appunto un ebreo marginale. Si ammette la sua esistenza, ma era un predicatore qualunque, niente di rilevante. E non bisogna accettare a scatola chiusa quel che dice la Chiesa. Abbiamo poi su italialaica.it veniamo a sapere di questo professor Vincenzo Brandi, che ha scritto Conoscenza, scienza e filosofia, profili di scienziati e filosofi della scienza, da Talete alla fisica, critica serrata ad ogni suggestione mistico-religiosa, bisogna attenersi alla scienza sperimentale. Si fa un riferimento anche a una TV democratica chiamata Teleambiente. Si parla anche del professor Mauro Cristaldi, che aderisce a questo gruppo di atei materialisti dialettici. Bene, concludiamo con l'inno al viva il libero pensiero, ora e sempre, resistenza anticlericale. Bene, saluti a tutti. Yeah, sulla na familia. Yeah, Non ha più lume, questa gente dispersa, non ha più nulla in comune, difende la sua dispensa, ognuno il proprio costume, la stessa faccia di merda, non son la gente comune, io son la gente diversa, io non partecipo ai foro, né tanto meno ai meeting, non lotto per nessun quorum, ma do il veleno ai tuoi miti, come ci siamo finiti, cimiteri di computer, in secula seculorum, noi anime incompiute, mute, voglio cambiare sto sistema da dentro, voglio trovare il sistema per entrare in Parlamento, ma la mia gente si schiera, ma noi siamo un movimento, portiamo dietro la schiena, le idee una bomba a tempo, mi sento alternativo, questo mondo m'ha reso cattivo, vendicativo fino in fondo con un obiettivo, poco obiettivo quando miro con il mio obiettivo, i mostri presi nel direttivo, Resident Evil, giro in missione questo mondo per le città, e tu se riesci guarda la mia faccia, in nome della libertà che viene uccisa. Sarò Gaetano Bresci su sta traccia, darò la caccia a voi padroni e sarete carta straccia, preda di lampi e tuoni. Io distruggo preti, religioni e le prigioni, capi di stato e dittatori, a calpestate e non ci sono. Abituato a sti tempi di consumismo, dove pure i sentimenti sono un marchio registrato del capitalismo, tutto un mercato e puoi trovare tutto in centro, e tutto questo consumare ormai ci ha consumato dentro, e sono tempi tristi, tempi di blackout, i nuovi fascisti, li ho visti travestirsi da boy scout, ma sono più qualunquisti e tu li vedi nascondere le vesti da razzisti nelle sedi di casa Pound, e sanno solo darci calci, costruire carceri e guardarci dormire per calcinarci, negarci il pane e giudicarci con la pena, se poi con la pancia piena parliamo solo da tangeri, ed io combatto per amore sta guerra interiore, senza col bacco né terra né caricatore, questo è il canto di un agitatore, e questo impianto è un pacco compatto più un detonatore, giro in missione questo mondo per le città, e tu se riesci guarda la mia faccia, in nome della libertà che viene uccisa. Sarò Gaetano Bresci su sta traccia, darò la caccia a voi padroni, e sarete carta straccia, preda di lampi e tuoni. Io distruggo preti, religioni e le prigioni, capi di stato e dittatori, a calpestati noi siamo sotto lo stato di paradossi intrallazzi, dove vieni ascoltato se fai così potamma, dove vieni schiacciato come si fa i papatacci, stato di paparazzi con a capo un papanazzi, stato di paradossi intrallazzi, dove vieni ascoltato se fai così potamma, dove vieni schiacciato come si fa i papatacci, stato di paparazzi con a capo un papanazzi, giro in missione questo mondo per le città, e tu se riesci guarda la mia faccia, in nome della libertà che viene uccisa. Sarò Gaetano Bresci su sta traccia, darò la caccia a voi padroni, e sarete carta straccia, preda di lampi e tuoni. Io distruggo preti, religioni e le prigioni, capi di stato e dittatori, a calpestato i nostri polsi. Giro in missione questo mondo per le città, in nome della libertà che viene uccisa. Sarò Gaetano Bresci su sta traccia, giro in missione questo mondo per le città, della libertà che viene uccisa. Sarò Gaetano Bresci su sta traccia. Tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni su Monte Calvario anche tu, che andiamo a inchiodare.